molecolare della nave sperduta. Ragionatore. Spirito pratico dell'acqua forza nemica. Navigare tormentoso. Rosso. Noia. Ghibile. Allone. Noia. Passibilità. Malata. Noia. Stazione. Fles. Onde. Ne va rastrinche. Sottomarino infinito cruda banita senza sardi salandra te no esercito di numeri piano piano burocratico perfetta imperfettibilità estraneo al tempo dominatore dello spazio io espansione dinamica di tre ro pendolo cerebrale del neutro zero all'infinito Italia re Thank you.